prezzestiva faceva lievemente danzare le punte dei cipressi del mio giardino. Nessun visitatore in quell'afoso pomeriggio d'estate. Così mia madre decise che era l'occasione giusta per fare il bucato. I panni venivano lavati nell'acquaio posto esternamente alla casa e per me era una piccola festa perché veniva usato il detersivo Tide. Questo prodotto rivoluzionario per le massaie di tutta l'Italia regalava nelle proprie confezioni alcune sorprese per i ragazzi della famiglia. Soldatini, ciondolini, figurine, tutti di una fattura estremamente rozza e dozzinale, tanto che veniva detto per indicare qualcosa di brutto: «Ma che l'hai trovato nel Tide?» Nonostante questo, per me era sempre un piccolo grande evento. Rovistare con le mani nel detersivo alla ricerca della sorpresa nascosta mi dava una sensazione di novità e di felicità, un piccolo tesoro da conservare e aggiungere alle mie collezioni. Una volta lavati, aiutai mia madre a stendere i panni nel retro del giardino a fianco del pollaio, dove incontrammo Remo, intento a governare gli amici pennuti. «Remo, ma lo vedi quanto sei sudicio? E poi ti devi tagliare quei capelli, sono troppo lunghi. Domani iniziano i lavori per la casa, mica ti vorrai far vedere in questo stato?» Normalmente mia madre gestiva anche l'immagine di Remo e lo convinse a recarsi immediatamente da Lelio, il parrucchiere. Lelio era il parrucchiere da cui tutta la famiglia abitualmente poneva il destino della propria capigliatura. E Lelio era solito compiere il proprio dovere con una sigaretta che non staccava mai dalle labbra. Concentrato sul taglio, con le mani occupate dalle forbici e dal pettine, riusciva a tenere in equilibrio la torre d'avorio grigio-azzurrastra costituita dalla cenere della sigaretta consumata. Arrivato al filtro, si fermava momentaneamente con le forbici e gettava la cicca accanto alle ciocche dei capelli tagliati caduti sul pavimento. Tutte le volte ero totalmente affascinato da quel suo gioco di equilibrismo che riusciva a fare con la sigaretta stretta tra le labbra in posizione quasi verticale per tutta la durata della sigaretta accesa. Un vero mago. Ovviamente Lelio non poteva parlare mentre effettuava questo spettacolo di varietà e questo rasserenava Remo, che non era costretto a intraprendere una conversazione di convenienza. Questa volta però Lelio chiese a Remo come andassero le cose. Non sembrava una domanda di cortesia. Mio padre rispose accennando che l'indomani sarebbero cominciati i lavori per la costruzione della nuova casa. Questo lo rendeva felice, ma contemporaneamente lo inquietava un po' perché non riusciva a capire cosa poteva riservargli il futuro. Lelio, accendendo l'ennesima sigaretta, gli disse: «Futuro e passato sotto un certo punto di vista sono la stessa cosa. Hai presente il mito di Sisifo? L'uomo continua per tutta la sua vita a portare un peso e l'unico suo compito è, quando arriva a destinazione, dopo una salita spaventosa, il fardello che aveva trasportato cade giù e lui deve ricominciare da capo la fatica. Tragica sorte o forse sorte comica?» Mio padre non capiva e si limitò alla sua consueta alzata di spalle. Dopodiché i due si strinsero la mano e si salutarono. Lasciato il negozio del barbiere filosofo, andammo subito a casa, dove eravamo convinti di trovare la cena pronta e tutti a tavola. Quella sera era prevista anche la presenza di Anna e di Andrea. Entrati in casa, ci accolse una grande confusione ed un'agitazione generale. Le mie sorelle, nel panico, correvano con dei panni in mano da un angolo all'altro della casa. Le pentole sul fuoco producevano un vapore che inondava tutto l'ambiente. Mia madre, seduta, piangeva e tremava e cominciò a gridare: «Fai uscire il bambino! Portalo fuori subito!» Anna stava per partorire. Non c'era tempo per chiamare Niope, la levatrice, la quale aveva aiutato tutti i miei fratelli, compreso me, a fare la nostra entratura in quello strano giardino. Mio padre mi spinse fuori, ma riuscì a spiare dal buco della serratura e vedere quanto basta. In quel caos totale, Aurelia aveva preso il controllo della situazione. Dopo alcune urla strazianti, Aurelia venne fuori dalla camera stringendo tra le sue mani rugose, semi avvolto in un panno sporco, un piccolo e brutto esserino di un colore indefinibile. Andrea aveva accettato a malincuore la decisione di Primo, il figlio non cambiava niente. Fino a che non si fossero sposati, Anna avrebbe abitato con il nuovo arrivato, Rodolfo a casa sua e Andrea a casa propria, cioè nel cimitero. Iniziarono i preparativi delle nozze. Le mie sorelle, eccitate perché l'occasione offriva loro la possibilità di un nuovo vestito, mia madre doveva abituarsi al nuovo appellativo di nonna. E il volto di Aurela aveva riguadagnato tratti di serenità e soddisfazione. Era lei che aveva aiutato Anna a partorire, l'ultimo nato in quel giardino prima del trasloco definitivo. Il cantiere per la nuova casa aveva intrapreso il suo lavoro di edificazione. Le fondamenta erano state gettate per il nostro futuro al di là della strada. Quei 10 metri che mi avrebbero separato dal cimitero mi sembravano una distanza enorme. La nuova abitazione prendeva un piano terra adibito a garage per il nuovo carro e magazzino con funzione di showroom delle casse. Al piano superiore era previsto un immenso spazio, il nostro, con 3 camere da letto, cucina, tinello abitabile, salotto, bagno con vasca e un grande disimpegno che divideva la zona giorno dalla zona notte. Bianca aveva già predisposto il vecchio pianoforte a muro nel salotto, mentre per il restante arredo restava un'incognita. Sapere che sotto di noi ci sarebbero state le casse e il carro mi rassicurava, mi faceva sentire a mio agio e meno distante dal mio giardino d'infanzia. L'organizzazione del matrimonio richiedeva alcuni mesi, per cui la data fu fissata in autunno, lo stesso periodo in cui era previsto la fine del cantiere e le consegne delle chiavi di casa. L'estate proseguì esclusivamente come periodo di attesa degli eventi che avrebbero cambiato la fisionomia della nostra famiglia. Intanto Aurelia aveva ripreso nelle sue performance teatrali a favore di un solo spettatore. Rodolfo, tutte le volte che rimaneva solo con il neonato, metteva in scena il meglio del suo repertorio fatto di smorfie buffe e piccoli gag gestuali con le quali riusciva a comunicare con quel brutto irritante esserino. L'estate trascorse in totale anonimato. Spesso attraversavo la strada a controllare lo stato dei lavori della casa insieme a mia madre, portando agli operai edili acqua e fiaschi di vino. Mia madre era diventata impaziente e progettava continuamente nuovi tipi di arredo, passando dallo stile rustico al design, costituiti dal souvenir degli unici viaggi effettuati, Venezia e Viareggio. Gli oggetti in questione erano una banale riproduzione di una gondola veneziana, uno scrigno intarsiato di conchiglie, un piccolo gioiello di alta fattura artigianale ed infine il pezzo forte, una gondola segnatempo, fatto di una materia sconosciuta, forse proveniente da altri pianeti, che a seconda della bassa o alta pressione essa si colorava di blu o rosa. Al momento di quell'acquisto, una forma di metuopatismo indotto dal gusto vigente aveva invaso tutta la famiglia. Comunque il cantiere stava rispettando i tempi di lavoro previsti. Andrea aveva già deciso che dopo le nozze sarebbe andata a vivere in paese, in un appartamento preso in affitto con la sua nuova famiglia, lasciando così più spazio a disposizione da dividere con 1000 discussioni tra le mie sorelle e mia nonna. Intanto mia nonna aveva ripreso un'attività che da tempo aveva trascurato. Dire il rosario. Solitamente il rosario lo sgranava nei cupi pomeriggi invernali e terminata l'operazione lo riponeva nel sacco dei suoi preziosi bottoni. Ma ultimamente aveva abbandonato questa forma di preghiera a causa di 1000 imprevisti avvenuti. Una sera, mentre eravamo raccolti a vedere in TV un film con Gianni e Pinotto, Aurelia improvvisamente tirò fuori il rosario e senza distogliere lo sguardo dallo schermo cominciò a spostare con le dita nodose quei grani di legno che componevano il suo amato rosario e sottovoce iniziò la dolce cantilena. Perplessi ci guardammo. Nessuno osò chiederle qualcosa e tantomeno ridere alle gag di Pinotto. La mattina dopo fui svegliato da un'insolita confusione fatta da pianti e singhiozzi. Era molto presto e mi meravigliai che le mie sorelle fossero già in piedi. Contrariato dalla confusione mi voltai di nuovo tra le lenzuola deciso a far prevalere i miei diritti di sonno estivo, ma la confusione non accennava a diminuire. Allora mia madre mi pose la mano sulla spalla e con gli occhi gonfi di lacrime mi disse: «Alzati, Nonna Aurelia è morta.